il sabato del villaggio. E intanto mi scriveva un WhatsApp sul mio telefonino Eddie Anselmi, che abbiamo sentito poco fa parlando di Eurovision, che era molto triste perché era molto malato e la sua voce sentiva male. No, Eddie, si sentiva bene, te lo dico così a distanza, anche se sei a Stoccolma. È il clima svedese che ti ha fatto un po' raffreddare. Dai, vabbè. Adesso, terza ora del sabato del villaggio, è il momento di cambiarsi d'abito perché è il momento di RadioTube. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. La terza ora di questo sabato del villaggio terza. Così intenso. Sarà che sembrano sette quasi. Guarda, io arrivo. È bello. Stremata. È bello intenso, il sabato. Però ti risvegli perché in quest'ora qua ti diverti molto. Io mi diverto tantissimo, no? Anche perché sai, poi dopo due ore che sei in diretta, la terza, dico vabbè, arriva Daniele, così ce la chiacchieriamo un po'. Ce la divertiamo. Possiamo chiacchierare anche su Twitter con et Marta Cagnola et di Bellasio e con l'hashtag RadioTube, se volete, anche nelle due ore precedenti con l'hashtag ISDV. Perfetto. Perfetto. Allora, Donald Trump è stato, praticamente è lui il candidato dei repubblicani, ma tu non vuoi parlare di Donald Trump. No, non è che io non voglio parlare di Donald Trump, è che no, vabbè, ma perché secondo me questa settimana il personaggio resta ancora Barack Obama. Però parliamo ancora anche di Donald Trump, della sua capigliatura radiofonica. Ma perché tutti parlano della sua capigliatura? Ma perché io, è così certo che sia un riporto misto? Sì. E non lo so se sono suoi, non è che sono... Però voglio dire, alla fine ha un suo stile un po'... Sì, è strano, un po', perché riesce, grazie a quello, riesce, pur essendo miliardario, ad apparire popolare. Ah, secondo te è una mossa di... è una cosa di umanità, nella cattiveria. Visione interessante. Mentre quel gran figo di Obama, che ogni volta che compare... lui farà l'attore, secondo me, dopo. Ogni volta che compare, inventa una cosa, poi cammina da... Come si dice, come si può dire, sbruffone brutto, come si chiamava quello, non mi viene, adesso mi verrà. Che cosa? Quello, non lo so, non mi viene. Beh. Allora, era l'ultima volta che più o meno parlava con i corrispondenti della Casa Bianca e ha inventato una piccola trovata che nel giro di pochissimi minuti è diventata virale in rete, tutti lì a dire quanto ci mancherà, sai cosa ha fatto? Beh, guardiamola alla radio. So, I want to close my final White House Correspondents' Dinner by just saying thank you. I'm very proud of what you've done. It has been an honor and a privilege to work side by side with you to strengthen our democracy. And with that, I just have two more words to say. Obama out. Il pum che avete sentito, è lui che ha mollato il microfono. È lui che Obama out, poi lascia cadere, fa un gesto, il microfono che tra l'altro non era quello con cui stava parlando, no, quindi preparatissimo, una roba che qualcuno gli ha messo lì, pizzosa. Fai cadere un microfono qua a Radio 24, cosa ti fa Filippo un microfono? Già, per molto meno Filippo mi sgrida. Allora, lui ha fatto Obama out e tutti, ma che trovata, bullo, volevo dire bullo. C'è un po', ha un po' del bullo di... della superpotenza, non di paese. Della superpotenza. Io non so se è vero che Obama out sia stata una sua versione di Mamba out, che è il discorso finale di Kobe Bryant. Perché Kobe Bryant ha detto Mamba out e lui ha detto Obama out. Sicuramente lo è, perché tu sai che lui è un grande appassionato di basket. Però... Comunque tu hai detto che farà l'attore, qualcuno già lo chiama Comedian in Chief invece di Commander in Chief, perché attore lui... di film romantici potrebbe fare, non lo so, una soap, Casa Obama. Casa Obama. Non parliamo Però d'altronde sarà difficile che lui possa davvero tornare dietro le quinte così senza apparire. No, no, dovrà fare qualcosa, dovrà intanto fare qualcosa dei concorsi. Di importante. Però voltiamo pagina, basta Obama, so che c'era un altro video da mandare basta, di Obama, ma andiamo avanti perché, perché allora di cosa vuoi parlare? Hanno parlato di film, di cose di questo tipo anche i leader europei ieri a Roma per consegnare. Raccontamela bene, raccontamela bene, perché ieri io ho fatto un sacco di cose, mi sono un po' distratta, mi hanno detto che è stata una scena un po'. Allora, praticamente i leader europei sono venuti a dare il premio Carlo Magno al Papa, Papa Bergoglio, e poi hanno fatto un discorso da queste terrazze. Tutte queste persone che vengono a Roma si sentono in dovere di dire delle cose pazzesche su Roma, perché Roma è Roma, lo sappiamo. L'effetto te lo fa, ma saranno venuti 45 volte, poi noi lo sappiamo che è la città più bella del mondo, non è che devono tutte le volte fare questa premessa. Solo che questa premessa di Schulz, presente Juncker, Schulz è presidente del Parlamento europeo, Juncker è presidente della Commissione europea. Diciamo che Schulz era già passato alla storia, alle cronache, per il famoso capò. Non possiamo dire chi l'ha detto. No, perché par condicio, c'è la era uno che aveva detto, gli aveva detto capò. Uno, anche lì con una capigliatura, la Donald, però, gli aveva detto capò. Tempo fa. Senti cosa ha detto Schulz. I know the place. Everybody who has seen that film, that movie about Don Camillo. Not Don Camillo, Jean-Claude. Is you see, this is the cultural level of the Commission of the European Union. The film, the movie about cioè, spiegami. Allora lui ha detto: bella questa vista, mi ricorda quel film, quel famoso film. Allora Juncker gli dice: Don Camillo. Che tra l'altro, dicendogli Don Camillo, dà un po' ragione a un'altra persona che ha detto che non possiamo sempre nominare. Coi capelli sta messo meglio, ma gli stanno diventando bianchi. Allora, ha detto che aveva detto che la Commissione europea è un po' una visione un po' antica, un po' vecchietta. In effetti, Don Camillo. Cioè, io stavo pensando alla grande bellezza. Però pare che lui si riferisse a un altro ancora, forse al film di Moretti. Ah, ok, che Abemus Papam, quindi che lui si riferisse appunto. Ma la cattiveria è quello che Schulz dice quando dice così potete capire qual è il livello culturale della Commissione europea. Ma come, Schulzino, tu che hai preso di capo da quello che non possiamo nominare, poi dopo tratti così il presidente. Ma dai, ma scherzava o gliel'ha detto? La faccia di Juncker, che è pure lussemburghese, che mostriamo ora alla radio, è diventata ancora più lussemburghese. Proprio era totalmente. Io questa settimana sono stata in Lussemburgo un giorno. No? Pure? Sì, ho fatto 24 ore in Lussemburgo. E Ligabue, no. E Lussemburgo. Sì, sono stata 24 ore in Lussemburgo. Sono partita lunedì sera, sono tornata martedì. Dovevi fare cosa? Depositare hai dei conti? No. Ma che? Ma poi scusa, io sono svizzera, vado in Lussemburgo. Sei svizzera anche? Vabbè. Sì. No, sono stata in Lussemburgo. Era bello? Era bello? Tutti con quella faccia lì di Juncker? No. Tutti molto lussemburghesi. Tutti ordinati, tutti precisi. Valigetta bancaria. Sì, però bello, ordinato. Pulito, tutto verde, pulitissimo, tutto verde. Si mangia bene in Lussemburgo? Ho mangiato molto bene cosa in Lussemburgo. Ma era una cucina un po' francese, un po' tedesca, sì, un po' a metà tutto, strada. Però per tornare seri, ce la facciamo a mandare in onda che cosa ha detto il Papa? Ce la facciamo. E così ci avviciniamo al blocco successivo, dove parleremo di cose più migrazioni. Allora, il Papa ha preso il premio Carlo Magno e ha strigliato l'Europa. Ah, sentiamo così. Come? Che cosa ti è successo, Europa umanistica, paladina dei diritti dell'uomo, della democrazia e della libertà? Che cosa ti è successo, Europa terra di poeti, filosofi, artisti, musicisti, letterati? Che cosa ti è successo, Europa madre di popoli e nazioni, madre di grandi uomini e donne che hanno saputo difendere e dare la vita per la dignità dei loro fratelli? Beh, insomma, un chiaro come lui sa essere. Sì, chiaro, sì, sì, chiaro e diretto. Che cosa ti è successo, Europa? Beh, tra l'altro bellissima come figura proprio poetica. Che cosa ti è successo, Europa? Allora, Daniele, facciamo una brevissima pausa per il traffico, però poi dopo sentiamo un altro pezzettino. Torniamo con un ospite favoloso. Un ospite con l'apostrofo tra un e ospite. Ah, sì. Un conduttore, conduttrice. Una poco, giornalista, dai. Giornalista. È una grande giornalista. Tra poco, dopo il traffico. Ciao. YouTube. E Daniele, torniamo insieme, lo avevamo detto prima della pausa, con degli argomenti... Un argomento serio e tosto. Sì, ti posso dire, un argomento difficile da capire, ma anche molto coinvolgente emotivamente, perché insomma io... A livello, tra l'altro, globale, non soltanto individualmente, a livello internazionale, verissimo, globale. Allora, abbiamo Noi lasciato gli ascoltatori prima con il Papa. Sì. Che ci ha fatto delle domande molto importanti sull'Europa. E il Papa ha parlato anche di un argomento molto... Che a lui sta molto a cuore, tanto che è andato nell'isola greca. Di Lesbo, ha parlato di migrazione, ne ha parlato proprio in questi giorni. Ed è questo, delle migrazioni, uno dei temi non solo più importanti in questo periodo, ma anche uno dei temi che ha affrontato in un libro che io ho divorato in una notte... Una delle... Che secchiona sei. Io sono una secchiona orribile, ma veramente non riuscivo a smettere, no, perché a un certo punto ero anche un po' senza fiato, perché mi ha colpito molto anche emotivamente, poi spiegherò perché. Una delle più grandi giornaliste italiane, io vabbè, non posso, diciamo solo il suo nome, diamo è così, un brand il nome. È solo lei. No, anche il cognome. Lilli Gruber. Buonasera, al telefono. Lilli Gruber. Buonasera. Buonasera, grazie. Grazie per questa bellissima presentazione. No, allora, essere all'altezza. Ma io sono qua senza fiato. Terrorismo, migrazioni, integrazione, il triangolo che cambia la nostra vita, edito da Rizzoli. Sono proprio questi tre ingredienti, è proprio un triangolo, e nel libro salti da un argomento all'altro mettendoli tutti insieme come un mosaico, però posso dire cosa mi ha colpito di più? Vai. Mi ha colpito molto che in tutti questi aspetti c'è la tua vita, tua vita familiare, le tue sensazioni, perché abbiamo fin dalla capito, prima riga. Che non è solo una... un fatto di un oggetto di giornalismo, un saggio, ma sono le tue riflessioni e la tua vita in questo periodo. Mi è sembrato veramente, mi ha molto emozionato questa cosa, Lilli. Beh, grazie, sono quasi commossa dalle tue parole. Diciamo che con Prigionieri dell'Islam ho cercato di mettere insieme tanti tasselli diversi che coinvolgessero anche le mie emozioni e anche i miei pensieri, anche quelli che normalmente non esprimo, perché io faccio Per Mezzo, che è una trasmissione quotidiana dove da conduttore non esprimo opinioni, o almeno provo a non esprimerle, e questo libro è stato l'occasione per mettere anche un po' di ordine nelle mie idee e un po' di ordine in un mondo sempre più caotico, sempre più confuso, sempre più dominato dalla paura. E quando io parlo di questo triangolo che rischia di diventare una trappola mortale per tutti noi, che è appunto terrorismo islamico, migrazioni, due fenomeni che automaticamente leghiamo all'Islam, e quindi automaticamente noi abbiamo una visione delle comunità musulmane che vivono da noi, una visione non sempre molto corretta. Quindi noi siamo prigionieri dell'Islam perché siamo troppo pieni di pregiudizi nei loro confronti, e loro sono prigionieri dell'Islam perché troppo spesso purtroppo accolgono una interpretazione iperoscurantista e retrograda del Corano. Ecco, in questo viaggio il sottotesto è un po' quello che si diceva prima, l'idea che non dobbiamo avere paura, però obiettivamente se ci mettiamo dalla parte di un comune cittadino europeo, il libro inizia proprio con il Bataclan, non avere paura non è facile, e non fare quella commistione di fenomeni che sono diversi tra loro in questa fase difficile. Dovessi dire due cose, due capisaldi per cui si può non avere paura, capisaldi nel senso di cose che hai compreso scrivendo questo libro e che ci possono dare l'ottimismo per non avere la paura. La paura è un sentimento molto umano e molto naturale, tipico di situazioni confuse, di momenti di crisi, di fasi di crisi economica. Quindi direi che intanto è un sentimento assolutamente normale. Ma diciamo che chi ha il compito di governare alcuni fenomeni che stanno cambiando la nostra vita, come i flussi migratori, come le politiche di integrazione di chi è diverso da noi, non devono farsi guidare dalla paura, costoro ovviamente, devono essere pragmatici e razionali e spiegare al cittadino e all'eventuale elettore come stanno le cose, come stanno i fatti. Allora noi oggi sappiamo che non siamo di fronte a un'invasione islamica, perché in Italia abbiamo 1.600.000 musulmani che vivono per la maggior parte molto ben integrati e siamo una popolazione di oltre 60 milioni. Non c'è nessuna invasione di migranti. E anche qui ancora una volta delle cifre sono arrivati nei primi mesi di quest'anno varie decine di migliaia, ma e l'anno scorso più di 120.000, certo, di cui molti sono poi andati verso il nord Europa. Certo. Vorrei ricordare che non la solita Germania, che nel 2015 ne ha accolti quasi 1 milione, ma paesi come la Turchia, che ha al proprio interno quasi 2,5 milioni di profughi siriani, il Libano, il piccolo Libano, che ha 1,2 milioni profughi, la Giordania. Quindi cerchiamo di mettere tutto in relazione. Mi direte che abbiamo bisogno di un'Europa più coesa e mi direte che per rassicurare un'opinione pubblica che comprensibilmente è inquieta, cercare di gestire e di governare questi fenomeni. Però l'unica cosa che non riesce a lasciarti serena, e lo leggo nelle pagine di questo libro, è il rapporto dell'Islam con le donne. Cito una tua affermazione nel libro: continuo a restare convinta che il progresso di una società si misuri con i progressi dei diritti delle donne. Ti fai molte domande lungo tutte le pagine del libro e fai molte domande. Sì, perché io mi ritengo abbastanza informata sui musulmani e sulla religione islamica e proprio per questo dico che non esiste un solo Islam, non esiste solo un tipo di donna musulmana, quindi intanto bisogna differenziare, ma conoscendo abbastanza bene molti paesi musulmani so anche che c'è un problema intrinseco con i diritti delle donne e quando non vengono rispettati i diritti delle donne non vengono rispettati in genere i diritti tout court, e quindi c'è un problema di democrazia e non a caso in tutti questi paesi c'è un problema di democrazia. Allora io vorrei che i musulmani in primis si sentissero obbligati a mettere in discussione le interpretazioni più retrograde della loro religione, che fanno male anche a loro, alle loro donne e alle loro popolazioni, alle loro comunità. E devo dire che con mio grande piacere, per esempio a Milano, ho assistito alla presentazione di questo progetto di alcune giovani donne musulmane di seconda generazione, colte, laureate, bravissime, che hanno giustamente deciso di proporre agli imam e alle persone che lavorano nelle moschee, quindi anche le donne, dei corsi di formazione. È chiaro che chi viene da noi e magari conosce non bene la nostra lingua, non conosce le nostre tradizioni, non conosce la nostra Costituzione, deve essere informato. Certo, e quindi certo, se lo fanno i musulmani con i loro fratelli e sorelle musulmane è ancora meglio. Ma ci devono anche qui essere delle politiche e dei principi molto chiari. Io sapete cosa vi dico? Che molto spesso ho l'impressione che noi, tra virgolette, quando blateriamo di valori non negoziabili, spesso non sappiamo neanche di cosa stiamo parlando, non sappiamo neanche che cosa ci dovrebbe stare molto a cuore. E siccome la religione islamica è una religione molto prescrittiva, quindi dobbiamo sapere con chi e con che cosa abbiamo a che fare, ma dobbiamo essere anche altrettanto chiari e certi che alcune pratiche non possono essere tollerate. Non può essere tollerato che in alcune moschee italiane vengano distribuiti dei libricini come quelli che mi sono stati consegnati alla moschea di Centocelle di Roma, dove si arrivava a dire persino che la moglie disobbediente, per riportarla all'ordine, si poteva anche arrivare a batterla, quindi a usarle violenza. Quindi sono delle cose queste intollerabili. Io soffro molto e devo dire che questa parte, che appunto è diluita in tante pagine del libro, mi ha colpito nel profondo. Prigionieri dell'Islam. Prigionieri dell'Islam, Rizzoli, devo dire un'ultima cosa. Io più invecchio, più divento grande, più penso che il giornalismo sia questione di preparazione, ma soprattutto di sensibilità. Certo. E quindi quando leggo che Lilli Gruber a un certo punto scrive: sono da sempre italiana e tedesca, a casa in un mondo quanto nell'altro, ma mai del tutto inserita in uno dei due, mai priva di disagio, è una condizione che, se riesci a non perderti, dà una forza incredibile. Io ho capito molte cose sicuramente di questo libro e forse un pochino anche della sua autrice. Grazie a Lilli per essere stata con noi. Grazie a Lilli Gruber, davvero buon 8:30. Complimenti per la vostra trasmissione, siete bravissimi. Grazie, mamma mia, senta, adesso sono troppo emozionata per andare avanti. Grazie Lilli per essere ciao, stata con noi. Meno male che abbiamo una breve pausa adesso. Breve pausa per qualcosa. Abbiamo una breve pausa, un po' di pubblicità, poi siamo ancora insieme. Inizia la settimana della moda. Il giallo è il colore di questa stagione, fresco, solare, mai banale. Nuovi abiti per... Ma di cosa stiamo parlando? La moda ti annoia? Allora, vestiti senza censure. Arrivano le t-shirt della trasmissione più dissacrante di Radio 24. L'imperdibile divisa che ogni militante dell'esercito della zanzara deve possedere. Scopri come averle su lazanzara.radio24.it. YouTube. Il Monza del Guerriero, una partita durissima come tutto il campionato. Sì, poi era un'ora di svantaggio e ci abbiamo messo col cuore, ci abbiamo pagato, veramente mettendoci tutto quello che avevamo dentro. Serena, la caccia del capocannoniere, ma una soddisfazione per te tripla, penso. Guardi, io all'Inter non mi ero mai espresso benissimo, avevo vinto solo una Coppa Italia e dall'altra parte avevo sempre vinto. Quest'anno veramente era una scommessa personale, dovevamo vincere questo scudetto, ci siamo riusciti e io ce l'ho messa tutta. Ma va bene, vinceremo insieme. Amala, pazza intera Amala, è una gioia infinita che dura una vita, pazza intera Amala. Cioè, solo io posso essere tanto masochista da proporre a Daniele Bellasio di parlare di calcio, le trasmissioni, di entrare in ambiente Inter, che proprio non è che io non sono proprio io ho su Twitter ho in mute, cioè ho zittito l'hashtag Amala, perché così non leggo niente, quindi non mi leggi mai, perché praticamente no, io metto esatto. No, ma capisci, Aldo Serena. Gran bel ragazzo, cioè che bel ragazzo Aldo Serena. La mia adolescenza, grazie ai suoi gol, sì. Più avanti Pizzullo dice 30 dei 50 passapunti fatti dall'Inter di quell'anno derivavano da Aldo Serena. Cioè, quindi la mia adolescenza a un certo punto migliora, perché io fino a quel momento ero triste, grazie ad Aldo Serena, anche gli altri, la Pattoni, tutto, però insomma il capocannoniere. Allora, quindi... facciamo una cosa, Daniele, diglielo. Cioè, dillo ad Aldo no, Serena. No, ma infatti, perché io perché, quello sai, che... ti dico che noi ce l'abbiamo al telefono proprio in questo momento. Perché quindi... tuo amico su Twitter, sì, praticamente. Sì, io lo adoro. Chiocciola al dito 11, ce l'abbiamo al telefono. Aldo Serena, buonasera Aldo. Buonasera a tutti voi. Buonasera. No, noi ti abbiamo chiamato per raccontare tutto quello che di calcio e di bello è successo nell'ultimo periodo, però per me appunto c'è questa cosa qui e chissà quanti te l'avranno detto, quell'anno lì. Ecco, all'Inter in quest'ultimo periodo... non è forse da raccontare, ecco, questo ultimo periodo, perché l'Inter si è un po' persa in questa stagione che aveva un po' illuso i tifosi nerazzurri fino a Natale. Sì, però Icardi Serena, come lo vedi? Beh, devo dire che Icardi nell'area di rigore è fortissimo, sta cercando anche di migliorare e secondo me nell'ultimo periodo c'è anche riuscito, deve essere più collaborativo con i compagni, deve correre un po' di più, deve rientrare e ci sta mettendo, secondo me, nell'ultimo periodo molta buona volontà, e questo va a suo favore, perché i gol lui li sa fare, basta portargli dei palloni in area di rigore e lui li mette dentro. Beh, ma Daniele non ce la fa a non parlare di Inter, gli brillano gli occhi, c'è infatti tutte le stelline. Infatti adesso mi taccio, siccome tuo cugino sta lì, vai. Allora, io devo dire una cosa, e adesso mostro alla radio anche questa maglietta. No, non ci credo. Ce l'ho, una maglietta con una scritta che adesso fotograferò. Perché in Italia abbiamo un grosso problema con la pronuncia di questa squadra e di questa città. Allora, mi ha corretto Rocco ieri, io dicevo Leicester e lui Leicester. No. Allora... siccome c'è un gruppo molto famoso che viene da quella squadra, da quella città, che si chiamano Kasabian, hanno fatto un concerto lì, e questa è la maglietta speciale di quel concerto che mi ha portato mio cugino perché abitava con lì. La pronuncia? Allora, si pronuncia, la mostro alla radio, Lesta. Ah, facile, Lesta, con l'H finale. Ah, pensavo peggio, Lesta. Quindi il Lesta questa settimana ha fatto una cosa molto bella. Beh sì, ha vinto il campionato inglese, una cosa pazzesca. Aldo, come mai? Com'è successo? Che storia è? È una favola, ecco, più di una favola, a lieto fine, succede di tanto in tanto, non così frequente, perché non si possono neanche far paragoni con il Verona dell'85, perché quel Verona l'annata precedente aveva partecipato alla Coppa UEFA, aveva campioni già affermati, forse neanche del Cagliari di Giriva, perché insomma aveva anche lì quella squadra dei giocatori nazionali che erano dei simboli. Beh, è veramente una sorpresa enorme. Ranieri ha fatto qualcosa di unico, è stato brevissimo, un allenatore che aveva frequentato tutte le squadre italiane più forti, perché da Napoli, Fiorentina, Inter, Juventus, Roma, di fatto è mancato solo il Milan, e non era mai riuscito a vincere uno scudetto, ha vinto la Coppa Italia con la Fiorentina, la Supercoppa, insomma poche cose, però secondo me se molte società lo hanno cercato, e quasi tutte, vuol dire che di fondo i valori c'erano già. Non avendo vinto, le grandi lo avevano cercato, lo avevano portato con loro, e questa è un'equazione di un allenatore che aveva i numeri per poter fare bene, non aveva fatto forse mai benissimo qui, ha fatto un capolavoro. E poi Marta, sai che esiste uno stile Ranieri? Cioè, ecco, io sono curiosa, perché io vedo un sacco di tweet, un sacco di reazioni anche inglesi ritwittate, cioè è un... Sì, perché quando eri in Italia questa cosa qua era percepita meno, anche perché forse in Italia di allenatori simili a Ranieri ce ne sono di più. Invece in Inghilterra lui è proprio anche cresciuto come personaggio, tanto è vero che nelle conferenze stampa, peraltro con un inglese che va tranquillo. Per esempio, guarda, senti che roba. Amazing. And also, hey man, we are in Champions League. We are in Champions League, man. Dilly din, dilly don, come on. You forget, you speak about blah blah blah, but we are in Champions League. That's what my come next on, question. Man. How big an achievement for you? Oh, it's fantastic, fantastic. It's amazing, amazing. And also, hey, man, we are in Champions League. We are in Champions League, man. Dilly din, dilly don, come on. But we are in Champions League. Dilly din, dilly don, come on. Beh, ma è fighissimo questo rap, dilly din, dilly dong. Eh sì, dilly din dilly dong, cioè lui, allora ti spiego, gli hanno chiesto, ma è vero che lei usa una campanella quando i giocatori si addormentano un po' per svegliarli, è vero che lei, e lui ha detto, ma no, ma che campanella, è che io ogni tanto all'inizio della stagione per caricarli un po' usavo il dilly din dilly dong. Però c'è molto di Ranieri, nel senso che, Serena, una squadra che l'anno scorso rischiava la retrocessione, più o meno con gli stessi giocatori con solo tre diversi, È solo una questione di motivazioni, cioè di dilly din dilly don, cioè di dare una forza motivazionale in più. È questo che ha fatto Ranieri? Oppure cosa succede negli spogliatoi? Che alchimia accade per trasformarsi da quasi ultima a prima? Beh, una chimica perfetta che comprende sicuramente le motivazioni, ma anche un atteggiamento tattico, il saper costruire una formula di gioco che valorizzi le caratteristiche dei propri giocatori. A lui a metà un centrocampo di fatto di giocatori che corrono tantissimo, che fanno entrambe le fasi, difensiva e offensiva, con un'intensità enorme. Ha trovato Vardy, ecco, un attaccante che non si era mai espresso così bene, e lì forse le qualità di questo giocatore dovevano essere premiate forse anche prima, ma sotto il profilo psicologico probabilmente non era mai riuscito a calarsi bene nella parte del bomber vero, e Ranieri gli ha costruito una squadra sulle sue caratteristiche, perché Vardy è velocissimo e bravissimo negli spazi, e quindi una squadra che si copre, si chiude e rilancia velocemente, e lui lo ha ripagato in maniera speciale con 22 gol e 8 assist. Devo dire che lui è diventato un personaggio anche al di là delle scelte calcistiche. È stato molto carino vedere i titoli dei giornali inglesi, in particolare Mirror Sport e Star Sport, che avevano titolato Mamma Mia, perché lui per andare a pranzo, lui Ranieri, per andare a pranzo con la mamma che, 96 che anni, è molto anziana, sì, e quindi lui insomma ci teneva ad andare a pranzo con la mamma, non è rimasto a vedere Chelsea Tottenham, che poi era la sfida decisiva. Forse addirittura in aereo durante la sfida decisiva. Con questi, vabbè, un po' prendono in giro come sempre gli italiani, vabbè, insomma, però in questo caso, dai, fa capire anche che uomo è. Sì, il personaggio. Serena, tra gli allenatori che hai avuto, chi ti ricorda di più Ranieri? Beh, per l'attenzione certosina, per il sapere anche comunicare, io ho avuto allenatori del passato, cito Fabio Capello, Trapattoni, Gigi Radice, ecco, non assomiglia proprio a nessuno di questi, però ecco, se devo trovare, anche forzando, una somiglianza, ecco, sotto il profilo dialettico non molto con Trapattoni, ma ecco, sul profilo della gestione della squadra, del gruppo, dello spogliatoio, io penso proprio che Ranieri sia molto vicino a Trapattoni, che è un allenatore sensibile, attento alle caratteristiche poi anche tecniche dei propri giocatori, cerca di valorizzare, cambiando anche, modificando quelle che sono le proprie idee tattiche in funzione proprio delle qualità dei propri giocatori. E poi devo dire che analogo anche loro, la loro zinvoltura con le lingue. Sì, esatto. Beh, Trapattoni ha viaggiato parecchio, comunque, certo, alla fine. Certo, allenato, certo, in mezzo mondo. Però non diventerà citi dell'Italia, lui ha detto che non vuole. Chi? Ranieri, no? Trapattoni, Ranieri. Dice che non si trova con le nazionali. E cosa succederà allora adesso? Aldo, secondo te cosa succede alla nostra nazionale? Ah, la nostra nazionale ha probabilmente un duro impegno, perché nel sostituire Conte dopo l'europeo non sarà facile. Conte è un allenatore didattico, un maniaco della preparazione, dell'allenamento, della costruzione proprio del gioco attraverso prove e riprove nei campi di gioco, e quindi probabilmente gli manca molto questo. In nazionale si raduni ogni tanto, non tutti i giorni. Io penso che ci siano giocatori, allenatori italiani, scusate, che possono fare bene, anche se sarà difficile sostituire Conte, cito Mancini, Montella, Ventura. Mm-hmm. Ecco, Ventura sembra un po' in bilico a Torino, ma questi tre potrebbero entrambi tutti far bene in nazionale, perché hanno oramai un'esperienza acquisita, Montella un po' meno degli altri, però hanno conoscenze, sono bravi nella didattica e hanno oramai un pedigree secondo me di prim'ordine. Mia curiosità personale, un calciatore professionista quando sa che il proprio selezionatore dopo quella competizione non ci sarà più, ce ne sarà un altro, è in qualche modo influenzato? Ma io penso di no. Quando hai davanti un impegno come questo, è abbastanza ravvicinato come l'europeo, il calciatore pensa a far bene, pensa a conquistare Conte, ad arrivare alla titolarità, a giocare più partite possibili, e quindi cerca di accontentare Conte adesso, perché quello che devi vivere è proprio un impegno importante, che forse a volte capita anche una volta sola nella vita per alcuni, quindi io penso di no. Ok. Che meraviglia. Chiocciola, ti seguiamo su Mediaset Premium. 11 su Twitter e poi ovviamente Mediaset Premium. Grazie Aldo Serena per essere stato con noi. Grazie, grazie Aldo. Grazie per i gol. Vabbè, insomma, qui un tripudio di Inter. Vabbè, no, ci voleva. Tra poco l'ultimo spicchio di RadioTube, adesso un po' di traffico. Poi saremo ancora traffico. Insieme. Hey man, we are in Champions League. We are in Champions League, man. Dele din dele don, come on. Tutti i giorni, dalle 14 alle 15.30, il professor Genta e il professor Pardo, tutti convocati. Tutti convocati, un'ora e mezza, 90 minuti, il tempo di una partita, grande entusiasmo, ottimismo. Sempre su Radio 24, la passione si sente. E la passione continua anche la domenica dalle 17 alle 19. Sono Giovanni Capuano e vi aspetto, tutti convocati weekend, facciamo il primo processo a quello che è successo in campo. Radio Tube. Cosa è successo durante la pausa? È impazzito Daniele Bellasio, ha detto no, basta, cambiamo la scaletta. L'ha fatto. Una volta che ho un guizzo, come dici tu, che sono passivo-aggressivo, una volta che sì, sono lui, attivo pacifico. Mamma mia. Adesso che sono attivo pacifico, volevo... È inzighino l'uomo, inzighino, mamma mia. Si dice scorpione, è un segno zodiacale. Faticoso, lo dico a voi a casa, faticoso, Bellasio, faticoso. Allora, volevo parlare di Striscia perché non ne abbiamo mai parlato. Allora, durante la pausa ha detto voglio parlare di Striscia. Il povero Striscia... Cristian Goldoni è fiondato fuori dalla... a trovare il numero di telefono di Pinuccio, che al telefono per contratto deve rispondere, perché siccome lui chiama tutti, lui deve rispondere. Perché ha detto voglio parlare con Pinuccio, perché da tanto che non lo sentiamo. E lui fa l'inviato. Noi ancora lo sentivamo quando era solo una celebrità del web. Invece adesso ne parliamo anche come inviato, quindi? E quindi abbiamo al telefono Pinuccio, l'abbiamo disturbato. Ciao, Pinuccio. Al volo, e lui ci ha detto buongiorno, di sì. Buongiorno a voi. Ma che carino. Ma guarda... Beccatemi i giorni della festa di San Nicola, dove non potete immaginare quante bestemmie ho lanciato per trovare un parcheggio. Che meraviglia, però che meraviglia. Ma ci sei da diverte. Solo o con Sabino? No, adesso sono solo perché Sabino si muove solo con i mezzi degli altri. ok. Quindi cioè... non è il problema del parcheggio. Esatto. Ti abbiamo chiamato l'ultima volta, ma non tantissimo tempo fa. Cioè da... Più di un anno. Però insomma in un anno è cambiato veramente tu. Cioè è cambiato tanto per te. Perché Striscia la Notizia, il teatro. Sono le successe cose, delle cose belle. Belle. È cambiato e si sono rinforzate alcune cose, insomma. No, anche perché noi l'avevamo spiegato che insomma non è che tu ti fossi inventato una cosa nel web, il personaggio di Pinuccio, perché diciamo lui non si fa il comunicatore, no? Nella vita Alessio, precedente, insomma, non è che se lo fosse inventato così. La parola artista, perché artista la trovo più, come posso dire, un punto di arrivo che un punto di partenza. Ma sto fatto come si dice di Striscia, come ti diverti, ti piace, come funziona? Mi diverto perché, se avete avuto occasione di vedermi, alla fine rimane il mio personaggio con Sabino, la suocera. Naturalmente mi diverto perché è cambiato, è aumentata la visuale rispetto ai problemi. Cioè, se prima sul web era una denuncia che sì, facevo rispetto alla politica, adesso diciamo la vicinanza ai problemi dei cittadini ha fatto fare un altro passo al mio personaggio, quindi insomma credo che sia una fase anche di completamento più vicino al racconto. Tra l'altro Striscia in queste settimane sì, sta litigando con l'Agenzia delle Entrate, addirittura. Sì, lo so. Che ci sono, c'è questo filone in cui entrerò anch'io. Però si sono bisticciati. Ti occupi soprattutto della tua regione, perché ho visto che insomma hai realizzato molte cose in Puglia. Eh sì, vabbè, diciamo la mia area di competenza è quella. Beh, come anche nei TG. Anche se l'accento toscano confondo. Sì, un po', no, infatti. Però... Io ho visto quello della strada, era fantastico, quello della strada. Sì, vabbè, quella è una, diciamo... una delle tante, la strada che si è spostata, che Sant'Antonio, certo, che vivo in questa regione ormai da 36 quasi 37 anni, però adesso con le mail che arrivano dalla gente mi sono reso conto dei problemi che ha la mia regione, perché sai, spesso uno non lo sa, dice vabbè no, a noi è diverso, a noi è meglio, e invece si ride, però c'è tanto da fare. Sabino, la strada sembra bombardata, qui hanno messo il cemento. Eh sì, si sarà rotta e hanno messo il toppo. Ma le pareti stanno crollando. Secondo me queste sono cascate prosciugate. Il guardrail dovrebbe servire per contenere una macchina che magari va fuori strada. Invece qui ti accompagna proprio fuori strada. È giusto, Sabino? C'è un accompagnamento. Dolce dolce. Esatto. Ma senti, ma i pugliesi adesso come ti riconoscono? Ti è cambiato qualcosa per te nel tuo rapporto con le persone? Sì, ci sono le mamme che vogliono far fare le foto ai figli, anche i figli piangono e hanno paura della barba. E dicono, come fai la foto con Pinuccio? Lo vedi sempre? Dico, vabbè signore, se il bambino piange non è che per forza deve fare la foto con me. No, fallo, me li metto in braccio, piango. Ma tu hai ancora voglia di fare i video sul web? Quelli di Pinuccio? Sì, Pinuccio quando chiama. Posso li faccio, però obiettivamente insomma il tempo diventa, cioè, ho meno tempo perché comunque con Striscia si trotta. Ma a proposito, come ti spieghi il successo di Striscia? Ormai quanti anni sono? Cioè, da sempre, tipo, saranno quasi 30. Il ventottesimo. Ventottesimo anno sempre con lo stesso livello di successo, da esperto della materia. Come te lo spieghi? Ma io credo che sia per la, insomma, per quello che racconta e per il tono con cui si raccontano le cose. Poi anche aver sperimentato quest'anno oltre me altri quattro personaggi nuovi che hanno dato un colore diverso rispetto a quello che dicono. Insomma, credo che sia rimasto, cioè, un programma che comunque, nonostante il web, si è aggiornato. Poi forse credo anche la scelta di alcuni personaggi, tipo il mio, che comunque aveva una vita sul web, abbia aggiornato proprio il linguaggio della trasmissione, e credo che sia uno dei pochi che stia riuscendo ad interagire con le nuove forme di comunicazione. Non hai dovuto peraltro cambiare il tuo linguaggio, sei sempre tu. No, l'accento toscano, come ho ripetuto, certo, rimane sempre. No, e poi la cosa bella è quella: tu sei così, naturalmente la trasmissione è questa, però in base al tuo linguaggio cerca di portarti a Striscia. E quella è una cosa che ho apprezzato molto. C'è un di più da inviato, però, a dir la verità, eh? Sì, c'è una parte da raccontatore, c'è un doversi documentare anche meglio rispetto a quando parli di cose che le amministrazioni fanno e magari non vanno. E poi soprattutto alcune volte si ritrova di fronte a casi in cui il sorriso è difficile da venire, perché magari sono casi di gente che denuncia uno stato sociale che, ahimè, è disastroso. Senti, ma l'ultima telefonata che hai fatto a chi è? L'ultima telefonata che ho fatto è stata a Renzi dopo il referendum. Quindi, perché lì in Puglia c'era il suo amico Emiliano, no? Cioè, sì, è il referendum che ha vinto Renzi, perché non è andato a votare nessuno. Queste vittorie strane, cioè, tipo Supernalotto, se non faccio sì vinco, cioè tipo quello. Sì, ma in Italia spesso accade il referendum per dire sì devi dire no, per dire no devi dire sì, ci sono queste cose un po' ribaltate. Non si capisce niente. C'è stato uno che ha detto: io ho votato no perché sono contro le trivelle. Ho detto: bravo, hai capito tutto. Fantastico. Lo so, bizantinismi, ci abbiamo costruito una letteratura su questi nostri difetti nazionali. Che meraviglia, veramente. Grazie, così, veramente al volo, grazie al volo. Impazzito, bell'altro. Mi hai fatto questo regalo, non una volta che te l'ho chiesto. Non prendere il vizio di disturbare così le persone al volo. No. Grazie. No, lui non mi disturba mai, posso dire, non mi disturba mai. Saluta Sabino, grazie. Può chiamare quando vuole. Un abbraccio, grazie a Finuccio. Ciao. Grazie. Ciao. Sei simpatico. Ti spacco la faccia. Vabbè, ma proprio impazziti così. No, è Filippo che ti saluta. Ah, va bene, sta salutando me. Ah, sì, okay, è Filippo, ho capito. Che ti saluta. Ho capito. Vabbè, così con questa follia finale della scaletta cambiata all'improvviso, non così non mi piaceva più quello. Dobbiamo cambiare tutto. No. Piaceva di più, volevi mandare il carpooling. No, allora no. Lo dico perché resti alla... metti che probabilmente quello avresti vinto il Pulitzer se avessimo mandato il carpool. Ma no, karaoke avevamo, c'è scritto, questo argomento, che era, vabbè, parleremo con chi un'altra era? Volta il carpool karaoke. Questa cercatelo su YouTube. Gwen Stefani ha avuto George Clooney, c'aveva un sacco di gente piuttosto. Marta Cagnola ha perso il c'era Pulitzer, c'era Julia Roberts, non l'abbiamo mandato in onda, ma voi potete googolarlo. Ma cattivo veramente, guarda, non ti chiamo più il prossimo sabato, lo faccio da sola. Va bene, ciao. Cristian Goldoni, ringraziamolo, però lui lo vuoi ancora? No, allora facciamo che ci penso questa ci settimana, pensi. vediamo. Allora ringraziamo tantissimo Cristian Goldoni che ci ha sopportato, che ha fatto una corsa fuori a ritrovare tutto, cambiare tutta la scaletta. Filippo Reggi che ci ha supportato e sopportato in regia. Daniele, la prossima settimana vediamo se ci sono. Vediamo se ti rivoglio. Ciao.